Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Oltre ai battesimi per aspersione e per infusione, che sono antibiblici, perché il battesimo istituito da Cristo Gesù è per immersione, ci sono altri battesimi da confutare e sono i battesimi per parziale immersione. Non avrei mai immaginato quando mi sono convertito, o meglio, quando il Signore ha convertito il mio cuore, che sarebbe arrivato il giorno che io avrei confutato i battesimi per parziale immersione. Eppure questo giorno è arrivato. E sono costretto a fare questa predicazione confutatoria perché è una piaga, una sorta di piaga, quella dei battesimi per parziale immersione. Proprio i battesimi per parziale immersione si stanno diffondendo a macchia d'olio, un po' per tutte le chiese, badate bene, quindi non solo all'interno delle chiese pentecostali, sia quelle, diciamo, che fanno parte di una denominazione, sia quelle che non fanno parte di alcuna denominazione, ma anche all'interno dell'ambiente evangelico, come per esempio l'ambiente battista, dove il battesimo viene insegnato a essere per immersione. Però anche lì ho visto che, diciamo, come anche nella Chiesa dei Fratelli, che insegna la Chiesa dei Fratelli il battesimo per immersione, ho notato che anche in queste chiese evangeliche oramai i battesimi per parziale immersione sono veramente tanti. Comunque, anche se fossero stati pochi, io avrei fatto lo stesso la computazione, però sto prendendo, diciamo, la consapevolezza che effettivamente stanno dilagando e bisogna veramente porre un freno. Magari non riuscirò con questa mia predicazione a, diciamo, eliminare o comunque a far eliminare tutti i battesimi per parziale immersione, però con questa mia predicazione sono fiducioso nel Signore che molti capiranno che i battesimi per parziale immersione vanno aboliti perché non sono biblici. E quando una pratica non è biblica bisogna abolirla. Vi ricordo che l'Apostolo Paolo, il nostro caro fratello Paolo, disse queste parole in una sua epistola ai santi di Corinto. Dice: or fratelli, queste cose le ho per amore vostro applicate a me stesso e ad Apollo, onde per nostro mezzo impariate a praticare il non oltre quello che è scritto, affinché non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. Ora, è un dato di fatto, molte chiese amano praticare oltre quello che è scritto, cioè è scritto una cosa, loro vanno oltre, non gli va di attenersi a quello che è scritto, devono per forza di cose andare oltre, se non contro. Ora, il battesimo per parziale immersione non è biblico. Ora, che cosa intendo per battesimo per parziale immersione? Perché chiaramente questa premessa è necessaria affinché comprendiate che cos'è un battesimo per parziale immersione, anche se la parola stessa, diciamo, l'espressione stessa già lo dice, però siccome che magari qualcuno potrebbe anche non capire, allora voglio spiegarlo. Allora, un battesimo per parziale immersione è un battesimo, diciamo, che viene sì ministrato nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, diciamo, nell'acqua, però quando viene ministrato il battezzando non viene, diciamo, immerso totalmente dal battezzatore. Ecco, quindi il battezzatore è colui che battezza. E questo, diciamo, si vede, perché oramai voi sapete che la maggior parte delle chiese evangeliche pubblica i battesimi, diciamo, che fanno, sia che vengono fatti in una piscina o che vengono fatti al lago, in un fiume, al mare, o dentro una vasca battesimale, dentro il locale di culto. Diciamo che la stragrande maggioranza delle chiese, ho notato, che diciamo, su internet pubblica o foto o diciamo anche filmati. I filmati oramai si stanno moltiplicando sempre di più, e basta andare a vedere i filmati, diciamo, dei battesimi, e noterete che ci sono non pochi battesimi per parziale immersione. Infatti si vedono persone che vengono immerse nell'acqua, però non vengono immerse totalmente. Cosa voglio dire? Che rimangono fuori pezzi di gambe, devo parlare così perché altrimenti non mi capite, pezzi di gambe, pezzi di braccia, parti della testa, talvolta anche parte del busto della persona. Insomma, una vergogna, qualcosa di vergognoso a vedersi. Effettivamente, quando si vedono questi battesimi, uno rimane veramente non solo perplesso, ma anche disgustato. Perché? Perché vede che il battesimo istituito da Cristo Gesù, dal Figlio di Dio, non viene praticato come deve essere praticato, cioè per totale immersione. Oramai ho notato che molte chiese evangeliche, diciamo, si disinteressano della verità, è come se fossero diventate allergiche alla verità, perché anche se poi tu gli fai notare queste cose, ti rispondono malamente, ti rispondono offendendoti. Addirittura riescono a dirti: ma tu vedi il male dappertutto, ma è ora che la smettiate, ipocriti, di dire che io vedo il male dappertutto. Io il male lo vedo dove c'è il male, dove c'è il bene non vedo il male. Siete voi che dove c'è il bene vedete il male, ma io dove c'è il bene non vedo il male. Ora, dove c'è un'eresia, io vedo l'eresia, dove c'è una pratica non biblica, io vedo una pratica non biblica. Siete bravi voi a dire che praticate e insegnate il battesimo per immersione, quindi non accettate il battesimo della Chiesa Cattolica Romana perché viene ministrata dei bambini che non hanno creduto, e poi viene ministrata in una maniera sbagliata. Sì, sì, fate bene a dire queste cose, ma perché pensate che il vostro battesimo per parziale immersione sia diverso dal battesimo della Chiesa Cattolica Romana? Eh? Pensate che sia diverso agli occhi del Signore? No, agli occhi del Signore non è valido, perché il battesimo deve essere ministrato per totale immersione, altrimenti il senso della parola, il significato della parola battesimo, cioè che senso ha il significato di quella parola? Battezzare, tuffare, immergere. È sottinteso naturalmente che deve essere, diciamo, il credente, colui che ha creduto, immerso totalmente, perché altrimenti che immersione è? Che immersione è? Allora, c'è un grosso problema, che appunto molte chiese sono diventate allergiche alla verità. Allergica alla verità. Quando sentono qualcuno proclamare la verità, si arrabbiano, gli va il sangue alla testa. Io uso spesso questa espressione per fare capire che queste chiese, appena invece di rallegrarsi, si infuriano. Ma come, c'hai da ridire pure sul battesimo che pratichiamo? Certo che c'ho da ridire, ma perché lo chiamate battesimo quello? Rimane fuori mezza persona, una gamba, due gambe, due braccia, un braccio, dipende, mezza testa, ma che battesimo è? Ma che battesimo è? Non è battesimo. Quindi vi dovete ravvedere, vi dovete convertire. Che vi mettete lì a voler contendere su che cosa? Avete torto, sbagliate, siete nell'errore, vi dovete correggere, dovete emendare le vostre vie agli occhi del Signore. Non avete scuse, perché voi dite che il battesimo deve essere per immersione, ma allora siate coerenti, se dite per immersione, perché non immergete totalmente i credenti? Andate al fiume, andate al fiume, e uno pensa che troviate, che andate in un posto nel fiume dove c'è tanta acqua, no, ve ne andate dove ci sono 30 centimetri d'acqua, al massimo 40 centimetri d'acqua. Voi pretendete di immergere una persona in 40 centimetri d'acqua, stando in piedi nell'acqua, e lo vediamo poi che cosa succede, rimangono fuori gambe, braccia, ma vi dovete vergognare, e poi a voi che avete le vasche battesimali nel locale di culto, ma perché non le riempite tutte d'acqua? Ma possibile mai? La vasca è alta un metro e la riempite 40 centimetri d'acqua, ma non vi vergognate? Ma non vi vergognate e trasmettete pure in diretta questa vergogna, perché queste cose poi sono una vergogna e fanno biasimare il nome di Dio. Ah, questi sono gli evangelici, poi diranno i cattolici, questi sono gli evangelici che poi ci vengono a biasimare, a criticare, perché noi non pratichiamo il battesimo secondo la regola biblica, Hanno ragione i cattolici romani a rimproverarvi, ipocriti, statevene zitti, ravvedetevi e convertitevi, voi evangelici del battesimo per parziale immersione, poi li vedi che vanno al mare anche lì, ho visto anche pentecostali, una vergogna unica, cioè vanno al mare, attenzione, al mare, e dove vanno a battezzare? Vado a battezzare dove praticamente l'acqua gli arriva nemmeno alle ginocchia. Ma si può? Ma come si può? Ma è follia questa. Ma dico io, andate al mare, ma scendete nell'acqua. Ve ne andate invece e vi fermate dove l'acqua vi arriva a 40 centimetri, a 30 centimetri circa. Che pretendete voi mentre siete in piedi di battezzare per immersione? Ma veramente è follia. Ma veramente è follia quello che pensate e quello che fate. Infatti si vedono poi delle scene allucinanti, sconcertanti. Ma con tutta l'acqua che ci abbiamo, grazie a Dio, noi in questa nazione, in questa penisola, baciata dai mari, al nord, al centro, al sud, ma dico io, ma qui acqua non ne manca in Italia, sapete? Ci abbiamo proprio i mari, poi fiumi, laghi, ma ci sono tanti bacini d'acqua. Di tutte le dimensioni, ma c'è acqua in abbondanza, siamo mica nel Sahara qui, anche se nel deserto si può trovare un posto dove battezzare, no? In qualche oasi, ma dico io, non siamo mica nel deserto del Sahara, capite? Cioè, qui siamo in Italia peraltro, c'è così tanta abbondanza di acqua, il Signore, grazie a Dio, si ricorda di mandare l'acqua, anche di far piovere su questa nazione, Voi sapete che il Signore è buono, il Signore è misericordioso, e fa piovere anche su questa nazione che è malvagia, data all'idolatria, dove veramente il peccato dilaga, ogni sorta di peccato, eppure il Signore si ricorda di far piovere su questa nazione. C'è tanta acqua e io devo vedere, filmati raccapriccianti, io uso questi termini perché, ma qui stiamo parlando del battesimo, non stiamo parlando di pasta e fagioli qua, qui non stiamo parlando di cose così, stiamo parlando di cose relative al regno di Dio, stiamo parlando del battesimo in acqua. E quindi a vedere queste cose qua mi indigno, mi arrabbio e mi sono costretto a levarmi in favore della verità, anche se lo so, sarò preso per l'ennesima volta come quello che non gli sta bene niente, non è che non mi sta bene niente, a me la menzogna non mi sta bene, a voi vi sta bene, vi dovete ravvedere e convertire, a voi la menzogna vi sta bene? E siete messi male, siete in una brutta condizione, la menzogna non deve mai stare bene a un cristiano, Un cristiano è un discepolo di Gesù Cristo. Allora, Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Non date ascolto a quelli che dicono che Gesù è una via, una verità e una vita, perché parlano di un altro Gesù. Allora, Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Lui ha detto la verità. La verità. Non è che ha detto una verità. La verità di Dio, Gesù Cristo, l'ha proclamata. E allora, il cristiano, che è appunto un giusto, aborrisce la menzogna, ciò che è falsità, la doppiezza, il cristiano l'aborrisce, il cristiano aborrisce le false dottrine, il cristiano non ama le false dottrine, e allora come si fa a non indignarsi, come si fa a non mostrare sdegno verso veramente questi battesimi per parziale immersione, quando appunto non corrispondono al battesimo istituito da Cristo. E adesso vediamo quello che dice la Sacra Scrittura. Capitolo, prenderemo dal Libro degli Atti degli Apostoli, un battesimo che è tra i più conosciuti in assoluto, perché diciamo che ai servizi battesimali, ai culti durante i quali vengono, ministrati i battesimi, spessissimo, viene predicato sull'eunuco, il famoso eunuco, la conversione dell'Etiopo, praticamente, che era un eunuco. Io ho sentito tante predicazioni, pure io ho predicato sull'eunuco, è giusto predicare, però, voglio dire, questa volta predicherò sull'eunuco, sottolineando il battesimo che ricevette per mano di Filippo, perché appunto ci fa comprendere come appunto veniva praticato il battesimo anticamente in seno alla Chiesa. Ora considerate che Filippo era un ministro dell'Evangelo, Filippo uno dei sette. Filippo era chiamato l'evangelista, quindi aveva il ministero dell'evangelista, predicava l'Evangelo e battezzava coloro che credevano nell'Evangelo. Infatti, appunto, si parla di quando Filippo scese a Samaria e lì predicò l'Evangelo. E la scrittura dice che quando ebbero creduto a Filippo, che annunziava loro la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. Vedete dunque? Filippo quindi battezzava, essendo evangelista, battezzava coloro che credevano. D'altronde Gesù ha ordinato di battezzare coloro che credono. Gesù disse, ai suoi undici disse, quando gli apparve dopo essere risuscitato, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. Poi disse anche in un altro posto, questo è scritto in Matteo, verso la fine di Matteo, dice così che Gesù accostatosi parlò loro dicendo, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque a ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Queste sono, le ultime parole, tra le ultime parole che sono scritte in Matteo. Notate appunto come gli apostoli dovevano ammaestrare e poi battezzare nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo. Allora, Filippo battezzava, oltre che ad evangelizzare, oltre quindi a predicare l'Evangelo, battezzava. Questo è molto importante sottolinearlo per appunto poi capire come battezzava. Perché lì, quando ho letto dei credenti che furono battezzati a Samaria, non c'è scritto, no? Cioè non è che c'è scritto proprio la modalità e così via. sappiamo comunque che furono battezzati per immersione nell'acqua, è chiaro. Però qui nella conversione, nel racconto della conversione dell'Etiopo, ci sono alcune parole che Dio ha voluto che fossero scritte, che ci mostrano veramente come veniva ministrato il battesimo in acqua anticamente. Quindi bisogna attenersi a quello che sta scritto. Al bando le ciance, dei cianciatori, dei ribelli, dei seduttori di menti, qua la sacra scrittura, che è la parola di Dio, va ubbidita. E guai a coloro che pensano di farsi beffe della sacra scrittura. Ormai molte chiese, io ho compreso, pensano di farsi beffe del Signore. Pensano di farsi beffe del Signore. Ci sono chiese che pensano che il Signore non li guarda, non li ascolta. Evidentemente. Se pensano di poter fare quello che vogliono, ma è evidente che loro non credono che Dio li guarda e Dio li ascolta, e men che meno che li punisce se peccano nel suo cospetto. Ormai sapete che Dio per molte chiese non punisce, non punisce nessuno, perché oramai molte chiese si sono conformate al pensiero massonico. Allora è scritto, capitolo 8, dal versetto 26 degli Atti degli Apostoli. Ora un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo: levati e vattene dalla parte di mezzodì sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza. Ella è una via deserta. Ed egli levato si andò, ed ecco un etiopo, un eunuco, ministro di Candace, regina degli Etiopi, il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei. Era venuto a Gerusalemme per adorare, stava tornandosene seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. E lo Spirito disse a Filippo: accostati e raggiungi codesto carro. Filippo accorse, l'udì che leggeva il profeta Isaia e disse: intendi tu le cose che leggi? Ed egli rispose: e come potrei intendere se alcuno non mi guida? E pregò Filippo che montasse e sedesse con lui. Ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo: egli è stato menato all'uccisione come una pecora. E come un agnello che è muto dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Del suo abbassamento fu tolta via la sua condanna. Chi descriverà la sua generazione? Poiché la sua vita è stata tolta dalla terra. E l'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: di chi ti prego dice questo il profeta, di se stesso oppure d'un altro? E Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli annunziò Gesù. Ma i cammin facendo giunsero a una certa acqua e l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è figliolo di Dio. E comandò che il carro si fermasse e discesero ambedue nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. E quando furono saliti fuori dell'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo cammino, tutto allegro, non lo vide più. Poi Filippo si ritrovò in Azot e, passando, evangelizzò tutte le città finché venne a Cesarea. Ora, Filippo dunque riceve un comando da un angelo del Signore. Ora, voi sapete che gli angeli del Signore sono degli spiriti ministratori mandati a servire a pro di quelli che hanno da redare la salvezza. E tra le cose che gli angeli del Signore fanno per volontà di Dio, per ordine di Dio, c'è quella proprio di portare messaggi da parte del Signore a, figlioli di Dio, servitori di Dio. Talvolta gli angeli sono anche apparsi o hanno parlato anche a persone che non erano ancora salvati, affinché poi il Signore li salvasse. Infatti un esempio per tutti, quello per esempio del centurione Cornelio, che vi ricordate, un angelo del Signore, un santo angelo, gli apparve in un determinato giorno. E lui ancora non era salvato, era un uomo pio, temente Dio con tutta la sua casa, faceva molte elemosine al popolo, pregava Dio del continuo, ma non era ancora salvato. Ebbene, un angelo del Signore gli apparve, gli parlò e gli comandò di mandare a chiamare Simone, no? Simon Pietro, il quale gli avrebbe poi parlato di cose per le quali sarebbe stato salvato lui e la sua casa. E infatti questo poi è quello che avvenne. Pietro andò a casa di Cornelio, essendo stato chiamato appunto da Cornelio, e gli annunziò l'Evangelo e Cornelio e la sua casa credettero nel Signore, quindi furono salvati. Quindi ci sono delle circostanze in cui il Signore appunto invia degli angeli a parlare anche a persone che ancora in quel momento non sono salvati, e questo affinché poi siano salvati. Ma veniamo appunto al messaggio che questo angelo rivolse a Filippo: levati e vattene dalla parte di mezzo di sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza, e è una via deserta. Quindi gli comandò di andare in una via particolare. Sì, il Signore può dirti, quando lo ritiene opportuno, di andare in una via ben precisa, di un paese, di una città. Ti può dare anche, diciamo, l'indirizzo di una casa dove tu devi andare. In questa circostanza gli disse solo a Filippo di andare su quella via, che peraltro era una via deserta. Allora Filippo che fece? Ubbidì, si levò e andò. Allora Filippo vide che c'era un etiopo. Comunque sia, c'era questo uomo che era su un carro e stava leggendo il profeta Isaia. Questo uomo stava scendendo era venuto a Gerusalemme e se ne stava tornando nella sua nazione. Allora lo Spirito del Signore disse a Filippo: accostati e raggiungi codesto carro. Allora quando Filippo accorse, allora l'udì che leggeva il profeta Isaia, fu lì appunto che seppe che quell'uomo stava leggendo il profeta Isaia. E allora naturalmente gli fece questa domanda: intendi tu le cose che leggi? Quindi vedete, prima ci fu un ordine da parte di un angelo, poi ci fu un ordine da parte dello Spirito di Dio, che è lo Spirito della verità. Infatti lo Spirito della verità gli disse a Filippo: a cosa ti raggiungi con questo carro? Quindi con una voce audibile. Come quell'angelo gli parlò con una voce audibile, così anche lo Spirito gli parlò con una voce audibile. La stessa cosa avviene oggi. Lo Spirito Santo talvolta proprio parla con una voce udibile ai servitori di Dio, ai figlioli di Dio. Il Signore ancora oggi parla per mezzo del suo Spirito. Allora Filippo quindi accorse e l'udì che leggeva il profeta Isaia. Notate che Filippo dimostrò, cioè con queste parole la scrittura ci fa capire che Filippo conosceva le scritture, perché non è che scambiò il profeta Isaia per il profeta Geremia o per il profeta Ezechiele, capite? No, capì proprio che stava leggendo il profeta Isaia. Ci sono credenti che se sentono quelle stesse parole, se tu non gli dici che è il profeta Isaia, non riescono a discernere che è il profeta Isaia, e peraltro queste sono tra le parole, diciamo, più famose che ha scritto il profeta Isaia. Perché? Perché riguardano il Cristo, il Messia. Ebbene, quindi, Filippo accorse, l'udì che leggeva il profeta Isaia, e gli fece questa domanda: intendi, capisci tu le cose che leggi? Ora consideriamo chi era questo uomo. Questo uomo, diciamo, era ministro di Candace, la regina degli Etiopi. Era, diciamo, sovrintendente di tutti i tesori di lei, quindi un personaggio importante. Era venuto a Gerusalemme per adorare e stava tornandosene, quindi, no? Ed era seduto sul suo carro. Il carro era suo. Stava leggendo il profeta Isaia. Allora, a questa domanda, intendi tu le cose che leggi? Il l'eunuco rispose: e come potrei intenderle se alcuno non mi guida? Quindi riconobbe il bisogno di qualcuno che lo guidasse affinché, diciamo, comprendesse quello che c'era scritto. Allora pregò Filippo che montasse e sedesse con lui. Allora, il passo della scrittura abbiamo visto qual era, lo ripetiamo. Egli è stato menato all'uccisione come una pecora e come un agnello che è muto dinanzi a colui che lo tosa. Così egli non ha aperto la bocca, nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna, chi descriverà la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra. Ora, queste parole, come vi ho detto, concernono il Cristo, il Messia, sono tra le tante parole scritte appunto che preannunziavano la venuta del Cristo. E in queste parole praticamente veniva descritta la morte del Signore, cioè veniva praticamente preannunziata la morte del Cristo. Infatti dice, egli è stato menato all'uccisione come una pecora, notate, all'uccisione, perché Gesù, il Cristo, è stato ucciso, è stato ucciso, come quando una pecora viene menata all'uccisione, vedete? Così Gesù fu menato all'uccisione, infatti Gesù Cristo è stato ucciso dai giudei, non si è ucciso, non si è suicidato come dicono i bugiardi, gli scellerati che si sono infiltrati nelle chiese evangeliche, che presentano la morte di Gesù come una morte per suicidio, vergogna, eretici, malvagi, bugiardi, da costoro dovete ritirarvi, non dovete avere niente a che fare con coloro che presentano la morte di Gesù come una morte, di uno che si è suicidato, no, Gesù, il Cristo è stato ucciso. Allora queste parole, è stato ucciso dai giudei, ricordatevelo, perché questo non si può dire oggi, o meglio, molte chiese assolutamente non si permettono di dire che Gesù è stato ucciso dai giudei perché hanno paura di essere etichettati come una setta, come antisemiti, insomma, hanno paura degli ebrei, sì, molte chiese evangeliche hanno paura della potente comunità ebraica mondiale, sì, infatti non dicono mai che Gesù è stato ucciso dai giudei, la scrittura lo dice, noi lo diciamo perché la scrittura è la parola di Dio, questo è quello che è avvenuto, i giudei uccisero i profeti e anche il nostro Signore Gesù Cristo, quindi questa è la verità, guai a coloro che rigettano la verità. E allora vi stavo dicendo che questa è una cosa che oramai, che Gesù sia stato ucciso dai giudei, non si può dire, perché altrimenti succede quello che succede, hanno una paura terribile, soprattutto le chiese che hanno fatto un'intesa con lo Stato, hanno una paura terribile, perché appunto ormai queste chiese sono alleate della sinagoga, si sono alleati con la sinagoga, anzi vi dirò di più, per usare una metafora, si sono alleati col Sinedrio, col sommo sacerdote, queste chiese sono malvagie, da queste chiese bisogna andarsene via, perché non hanno neppure il coraggio di dire che Gesù è stato ucciso dai giudei. Pensate, l'Apostolo Paolo lo diceva, l'Apostolo Pietro lo diceva e queste chiese stanno in silenzio. E quando sentono dire qualcuno, come me per esempio, dire che i giudei hanno ucciso Gesù, subito si scagliano. Tu sei antisemita, tu odi gli ebrei, tu sei qui, tu sei là. Ma quale antisemita? A parte il fatto che non si dovrebbe dire antisemita, non si dovrebbe dire, perché chi predica l'Evangelo ai giudei non è un antisemita nel senso che non è che odia gli ebrei, semmai desidera che essi siano salvati, è diverso, io quando annuncio l'Evangelo lo annuncio anche agli ebrei, ma affinché siano salvati, e gli devo dire agli ebrei che sono stati i loro padri a uccidere il Signore Gesù Cristo, glielo devo dire, sì, è la verità, Poi lo so che vengo accusato di essere uno che odia il popolo di Israele, ma quelli che odiano il popolo di Israele sono quelli che non gli annunciano l'Evangelo, sono quelli che gli dicono, vabbè, ma voi potete essere salvati anche senza Gesù, potete essere salvati osservando la legge di Mosè, non c'è bisogno che voi vi ravvediate e crediate nell'Evangelo, questi odiano gli ebrei, che poi si presentano come gli amici di Israele. Ma quali amici di Israele? Questi sono i nemici di Israele, perché? Perché non gli annunciano l'Evangelo. Capito? E si presentano come amici di Israele, una vergogna tremenda. Stanno succedendo delle cose in mezzo alle chiese veramente orribili, abominevoli. Dunque, egli è stato menato all'uccisione come una pecora. Allora, di chi stava parlando qua? Il profeta Isaia non stava parlando di se stesso, stava parlando del Cristo, che poi nella pienezza dei tempi è venuto, ed è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Le parole del profeta Isaia concernenti la morte espiatoria del Cristo si sono adempiute in Gesù. Allora, Filippo conosceva le scritture, sapeva che queste parole concernevano il Cristo e che queste parole si erano adempiute in Gesù di Nazareth, che è il Cristo, e quindi alla domanda di chi ti prega o dice questo il profeta, di se stesso oppure di un altro, Filippo cosa c'è scritto? Che prese a parlare e cominciando da questo passo della scrittura gli annunziò Gesù, vedete? Cioè, praticamente, gli annunziò l'Evangelo, la buona novella. Pensate, da quel passo della scrittura iniziò da là ad annunciargli l'Evangelo. Vedete come Dio aveva preparato tutto nei minimi particolari, perché Dio è così. Cioè Dio, fratelli nel Signore, ricordatevi, la nostra avanguardia e retroguardia, va davanti a noi e ci prepara la via. Avete notato voi che quando il Signore ci fa incontrare qualcuno, senza necessariamente averci dato una rivelazione in precedenza, ma avete notato che quando Dio ci fa incontrare qualcuno, noi troviamo sempre, il terreno preparato, la via preparata, l'avete notato questo? Perché? Perché il Signore opera in questa maniera, va davanti a noi e ci prepara la via. Vedete qui come il Signore aveva preparato la via affinché a Filippo, affinché naturalmente anche all'eunuco, affinché i due si incontrassero e poi l'eunuco si convertisse e Filippo lo battezzasse. Guardate un po' quanti particolari che Luca, l'autore del libro degli Atti, ci fa conoscere per farci riflettere su come veramente il Signore si prende cura di tutti i dettagli e ti fa rimanere meravigliato. Perché anche leggendo questa storia si rimane meravigliati, non ci si stanca mai di leggerla, di meditarla. Io sono decenni che la medito questa storia e ogni volta veramente mi sento edificato perché vedo la mano di Dio come opera, perché l'ho visto anche nella mia vita, nel mio ministero, ho visto proprio il Signore andare davanti a me e prepararmi la via. Certo, ho visto anche quelli che mi hanno cercato, di pormi degli ostacoli nella via, però sapete, poi ci pensa il Signore a rimuovere gli ostacoli e anche a rimuovere quelli che gli ostacoli mettono, perché ho visto anche uomini presi dal Signore fatti sparire dalla faccia della terra, perché il Signore Dio è tremendo. E coloro che appunto avversano l'opera di Dio, coloro che lottano contro Dio e quindi contro i ministri di Dio, il Signore talvolta decide di proprio farli sparire dalla faccia della terra e quindi di fare sparire la loro opposizione in questa maniera. E in quel giorno i loro disegni vengono frustrati e perisce il desiderio di questi ostacolatori dell'opera di Dio, perché ci sono. Però il Signore è grande, il Signore più grande di tutti, il nostro Dio, è veramente tremendo. Ebbene, gli annunziò Gesù. Gli annunziò Gesù. E cammin facendo, quindi passò del tempo, ecco che giungono a una certa acqua, non ci viene detto quale fosse quest'acqua. Comunque l'eunuco gli fa un'altra domanda. Avete visto l'eunuco quante domande? Avete visto quante domande faceva? Allora, domande a cui poi il Signore gli fece arrivare le risposte, risposte sagge, intelligenti, naturalmente, non poteva essere altrimenti. Allora dice, e l'eunuco dice a Filippo, ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Allora, perché questa domanda? Evidentemente perché Filippo gli aveva parlato del battesimo. Allora, appena vide dell'acqua, l'eunuco disse, ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Perché? Perché questo? Perché l'eunuco comprese che veramente era, diciamo, atto ad essere battezzato, in quanto aveva creduto, lo sentiva dentro, forte, il desiderio di farsi battezzare. Infatti, quando uno veramente ha creduto nell'Evangelo, sente forte in lui il desiderio di farsi battezzare. Questo è avvenuto veramente in tutti coloro che hanno creduto che Gesù è il Cristo, hanno sentito poi da subito il desiderio forte di farsi battezzare. E così avvenne nell'eunuco. Ecco dell'acqua. Che impedisce che io sia battezzato? Domanda, a risposta. Se tu credi con tutto il cuore è possibile. Quindi è necessario credere, necessario credere per essere battezzato. E appunto una volta che uno ha creduto, allora ha il diritto di essere battezzato. E naturalmente il ministro ha il dovere di battezzarlo. E infatti Filippo gli disse, se tu credi con tutto il cuore è possibile. Non è che gli disse, guarda, aspettiamo un po', va, è meglio che aspetti, meglio che passi un po' di prove prima, perché non si sa mai, bisogna vedere se tu hai veramente creduto, bisogna che ti fortifichi nella fede, sarebbe prematuro battezzarti adesso, subito, c'hai poco tempo di conversione. Quanto avrà avuto quando gli ha fatto questa domanda e quanto tempo era trascorso? Cioè invece oggi praticamente rispondono in questa maniera, ma no fratello, ma è ancora troppo presto, cioè lasciamo passare del tempo, perché sai, poi arrivano le prove, vediamo se resisti alle prove, ti devi consacrare diciamo al Signore prima. Hai capito? Cioè, praticamente è come se gli dicessero, guarda, quando raggiungi la perfezione, o quasi, perché ci sono alcuni che, guarda, ti fanno capire quasi quasi questo, hai capito? Quando avrai letto la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, quando avrai capito tutte le dottrine della parola del Signore, e allora c'è la possibilità che ti battezziamo. Purtroppo, fratelli del Signore, io estremizzo i concetti, ma le cose stanno così, cioè, addirittura mettono in dubbio che tu hai creduto. Mettono in dubbio che tu abbia creduto, è una vergogna anche questo, Vedete invece Filippo che era, diciamo, guidato dallo spirito della verità. Ah, poi ci sono quelli che dicono, e se ti svii? E se ti svii? Cioè, è assurdo. Praticamente ci sono quelli che non battezzano perché hanno paura che poi chi viene battezzato da loro si svia, che essi proprio non hanno capito assolutamente niente, come se lo sviamento eventuale o futuro di uno che loro hanno battezzato praticamente è colpa loro, cioè non hanno capito assolutamente niente. Io rimango talvolta meravigliato perché cioè dell'ignoranza, della stoltezza, che veramente molti manifestano. No, Filippo era un uomo savio, gli disse, se tu credi con tutto il cuore è possibile. Allora l'eunuco rispose, io credo che Gesù Cristo è figliolo di Dio. E allora che cosa avvenne? Avvenne il battesimo. Avvenne il battesimo. Là, sì, mentre viaggiavano. Allora che è successo? L'eunuco comandò che il carro si fermasse. infatti lui che aveva detto, aveva invitato Filippo a montare sul carro, vi ricordate, no? A sedere assieme a lui sul carro, ecco che l'eunuco comanda che il carro si ferma e discendono ambedue nell'acqua, Filippo e l'eunuco. Allora notate, tutti e due discendono nell'acqua, tutti e due, insomma, c'era dell'acqua, acqua in abbondanza. Per scendere nell'acqua, discesero, e avvenne che Filippo lo battezzò, cioè lo immerse, lo tuffò nell'acqua. E notate cosa c'è scritto, quando furono saliti fuori dell'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo. Allora notate che ci fu una discesa nell'acqua, ma poi anche una salita fuori dell'acqua, notate? Ma questo ci fa capire, quindi, che effettivamente c'era tanta acqua dove Filippo battezzò l'eunuco. Non c'erano 30 centimetri d'acqua. Cioè, non è che Filippo lo battezzò in 30 centimetri d'acqua, ma si capisce. Vedete? C'è il battesimo di Gesù, no? Che io mi ricordo quando mi convertì al Signore, glielo mettevo sempre davanti alla faccia dei cattolici romani, perché quando li evangelizzavo, perché gli dicevo, ma vedete, Gesù è stato battezzato quando aveva circa 30 anni, ma lo vedete, non è che è stato battezzato da bambino, gli dicevo, è stato battezzato quando era, diciamo, adulto, era circa 30 anni, e poi fu battezzato per immersione, allora gli leggevo queste parole, allora Giovanni lo lasciò fare. Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua. Notate cosa c'è scritto. Cosa c'è scritto qua? Allora che Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dell'acqua. Quindi lui fu immerso nell'acqua e poi salì fuori dell'acqua. Quindi uscì fuori dall'acqua. Prima c'entrò dentro l'acqua, perché Giovanni il Battista lo immerse, e poi lui uscì fuori dall'acqua. Ecco cosa c'è scritto, ed ecco i cieli s'apersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui, ed ecco una voce dai cieli che disse, questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Questo è scritto nel capitolo 3 di Matteo. In Marco, lo stesso evento è raccontato in questa maniera. Avvenne che in quei giorni che Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. Ad un tratto, come egli saliva fuori dell'acqua, vide fendersi i cieli e lo Spirito scendere su di lui, in somiglianza di colomba, e una voce come venne dai cieli, tu sei il mio diletto figliolo, in te mi sono compiaciuto. Ora notate che qua c'è scritto che come egli saliva fuori dell'acqua. Notate? Anche qui si capisce bene che c'era molta acqua, dove appunto Gesù fu battezzato. Ma insomma, vedete cosa siamo costretti a predicare? Perché veramente qui ormai le cose stanno in questa maniera. Allora, che ci fosse molta acqua, o comunque che c'era abbondanza di acqua, è confermato dal fatto che c'è scritto nel capitolo 3 di Giovanni, perché Giovanni poi li sceglieva bene i posti dove battezzare, ma mica come tanti pastori di oggi che vanno nei laghi, nei mari, nei fiumi e vanno a mettersi dove ci sono 30 centimetri di acqua. No. Giovanni appunto andava dove c'era abbondanza di acqua. Infatti c'è scritto, anche Giovanni stava battezzando, questo è il capitolo 3, versetto 23 di Giovanni, anche Giovanni stava battezzando a Enon presso Salim, perché c'era là molta acqua e la gente veniva a farsi battezzare. Vedete? A Enon, presso Salim, c'era molta acqua. Quindi, io non sono contrario che, i credenti siano battezzati in una vasca battesimale o in una piscina. Però, voglio dire, ma che ci sia molta acqua, però, affinché il battesimo sia veramente ministrato per totale immersione. Chiaramente la cosa migliore è andare in un fiume, al mare, questi sono, diciamo, in un lago, la cosa migliore da fare è questa, io ritengo. Però ci possono essere circostanze in cui appunto, diciamo, i credenti vengono battezzati, diciamo, in una vasca battesimale, in una piscina, ci sono queste circostanze. Però voglio dire, ma che ci sia molta acqua, abbondanza di acqua, ascoltatemi, ma fate le cose, ma non per fare piacere a me, ma per fare piacere al Signore. Voi dovete piacere al Signore, non è che dovete piacere a me, voi dovete studiare di piacere al Signore, quindi ubbidite al Signore, perché voglio dire, qualsiasi cosa noi facciamo, la dobbiamo fare alla gloria di Dio, non alla gloria di una chiesa o di un gruppo, no, alla gloria di Dio. Quindi il battesimo va ministrato alla gloria di Dio, e affinché Dio sia glorificato deve essere ministrato come il Signore ha comandato, per totale immersione, non per parziale immersione. Ma poi veramente sta male vedere parti del corpo rimanere fuori dall'acqua. Ma poi la cosa sconcertante è questa: poi quando fanno lo studio biblico sul battesimo, te lo dicono che cos'è, quando ti dicono il significato del battesimo, te lo dicono queste chiese evangeliche, no? Che cosa ti citano? Naturalmente, giustamente, Romani capitolo 6. O ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi siamo dunque stati con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Queste sono parole che tutte le chiese evangeliche che battezzano per immersione, diciamo, rivolgono ai membri di chiesa tramite i loro pastori, diciamo, per spiegare loro il battesimo, e dicono giustamente che il battesimo, mediante il battesimo si viene seppelliti, o che il battesimo è il seppellimento del credente nella morte di Cristo. Ma io dico una cosa, ma se è il seppellimento, cioè il seppellimento già presuppone che debba essere seppellito tutto il corpo, e allora seppellite tutto, non lasciate mani, piedi, pezzi di testa, pezzi della parte centrale del corpo fuori, cioè le braccia, non fate queste cose, seppellite tutto il credente, seppellitelo tutto, tutte le parti del corpo seppellitele. Seppellite naturalmente, secondo il significato naturalmente biblico, perché appunto questo è il significato del battesimo. Il battesimo è vero, mediante il battesimo non è che otteniamo la remissione dei peccati, non è che veniamo rigenerati, lo so, però il battesimo è importante, è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio, è importante che coloro che, diciamo, si fanno battezzare, lo ricevano come il Dio ha ordinato, per totale immersione. È una cosa seria il battesimo, è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio, Non è che è da prendere alla leggera, come se non avesse alcun valore. No, il battesimo ha un valore, è importante, benché chiaramente non rigenera, però è importante. Che significa? Il fatto che il battesimo non rigeneri e non rimette i peccati non significa mica che va preso alla leggera o va disprezzato. È la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. Quindi deve essere ministrato per totale immersione, come lo praticavano gli apostoli. Quindi io spero, o meglio, ho fiducia nel Signore, che questa mia predicazione servirà a tanti a capire l'errore che fanno nel ministrare battesimi per parziale immersione. E quindi che si ravvedano, la mia speranza, il mio desiderio, la mia preghiera, e che costoro si ravvedano e naturalmente abbandonino questa pratica del battezzare per parziale immersione, e si mettano finalmente, e daremo gloria a Dio per questo, a battezzare per totale immersione. Battezzate i credenti, ma fatelo come il Signore ha ordinato, per totale immersione, lo ripeto. Investigate le scritture, investigate le scritture e vedrete che le cose stanno così come ve le ho spiegate. Non fate, diciamo, non fate come quelli che ascoltano la parola di Dio e se la gettano dietro le spalle. Non fate come quelli che ascoltano i buoni consigli e se li gettano dietro le spalle, perché ne avrete del male se fate così. La scrittura dice, se sei beffardo solo tu ne porterai la pena. Ma cosa pensate di fare del male a me, se voi disubbidite al Signore? Ma voi fate del male a voi stessi e naturalmente poi anche a quelle anime che praticamente vi chiedono diciamo, il battesimo. Quindi non fate del male né a voi e nemmeno appunto a quelli che chiedono di essere da voi battezzati. Io ho fiducia nel Signore che la parola di Dio opera efficacemente in coloro che credono. E io so che chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Io so che i savi accettano la correzione, per cui ho piena fiducia che ci saranno credenti che ascoltando questa mia predicazione si ravvederanno e appunto abbandoneranno questa pratica del battezzare per parziale immersione. E naturalmente questo mi porta naturalmente già a dare gloria a Dio, perché Dio veramente va glorificato, perché è Lui che opera il volere e l'operare secondo la sua benevolenza poi nei credenti. Lui manda ad effetto la sua parola, è la sua parola infatti, non è la mia, e Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. E noi ci rallegriamo quando Dio manda ad effetto la sua parola, quando Dio apre la mente dei credenti per fargli intendere le scritture, noi ci rallegriamo. Perché? Perché il suo nome viene glorificato. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.